fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. E ci siamo in diretta con compagnia di queste ragazze che vengono da... Padova! Masi, provincia di Padova. Ah, Masi, provincia di Padova. Tutte dello stesso paese, eh? Vicenza. Ah, un po' Vicenza, un po' Padova? Sì. Ok, la nostra sposa come si chiama? Alice. Alice, vieni da Padova te? Provincia. Provincia. Ma queste sono tutte tue amiche fedelissime che conosci da tempo? Yes. Sì? Ne avete fatte di cotte e di crude, ragazze? Sì, abbastanza. Abbastanza. Quella mi sa che le ha fatte di più cotte. È l'addetta alle cotte. Come si chiama l'addetta alle cotte? Ilaria. Ilaria, grande Ilaria, grande, grandissima. E poi come ti chiami? Valentina. Poi? Elisa. E la nostra sposa Alice, giusto? Yes. Ok, allora, ragazzi, avete un aneddoto che si può raccontare alla radio delle vostre cose storiche che avete combinato? Però che si può raccontare, ovviamente. C'avete qualcosa memorabile? È andata in fermo immagine la ragazza. Ecco. Non mi viene in questo momento. Domanda troppo a bruciapelo. Tanto Alice intanto si fa aria con le orecchie da topolina lì da coniglietta. Da coniglietta, esatto, esatto. E, l'avete vista la coniglietta perché gli piacciono i conigli? Sì. Sì. A lei piace molto i conigli. Quindi è un amante del coniglio? Esatto, esatto. Esatto. A Pasqua soprattutto. A Pasqua ti piace il coniglio? Ah sì? Solo a Pasqua ti piacciono di più i conigli? Sì. Allora, questa è stagionale come preferenza. Che bello che fai il coso qua col vento. Ok, quindi non si può raccontare niente che non si può dire niente. Niente, no, al momento no. Avete un blackout totale? Completo. Molto. Sarà l'orario, ragazze? Sì. È solo colpa dell'orario, secondo voi? Sì, sì, diamo colpa all'orario, clamorosamente. Sì. Assolutamente sì. Ok, allora, tutte fidanzate, single? Single! Felicissimo. Immaginavo che c'è stata questa botta di entusiasmo. Dillo al microfono, tra l'altro. Felicemente. Ok, quindi non vuoi fare nessun appello, nessuna... Per carità. Oh, ok, mi piace che avrà vissuto così felicemente le... Cioè, un momento no. È un momento no, che un dura momento. Da... quanti anni? No? 15 anni che è un momento no, giustamente, ecco. Grandi, sì. Tra l'altro ha 16 anni la ragazza. Quanti anni hai? No, 31. Davvero? 31 anni? Non lo dimostra? Ah, grazie. Assolutamente. Anche voi? Voi siete più piccoli? 32? 32? 34. E tu? Ma veramente? Questo è portato benissimo. Cioè, grazie. Gentilissimo. C'è aria buona tra Padova e Vicenza. Giusto? L'abbiamo sentito dire anche prima. Esatto. Ve l'hanno detto altri ragazzi? Certo. Sì, sì. Quelli volevano marpionarvi. Io non ho scopo di lucro, loro invece probabilmente. Vi hanno marpionato un po' stasera? Sì. Si lamenta? Un po' solo poco. Il giusto, dai, no? Quanto basta? Quanto basta? Tanto sarete abituate, no? Perché essere donna c'è questo problema qua, che ogni volta che vai da qualche parte ti si attaccano come mosconi. Abbiamo una ragazza che praticamente è in fermo immagine e ci sta solo ascoltando. Ecco. Valentina, confermi? Sono presente. Ah, è presente. Ma c'è il traduttore più che la cuffia? Esatto. C'è il ritorno? Ecco, è arrivata la traduzione? Sì, sì. E quindi cosa dici? Cosa dico di cosa? Che i maschi, cioè ogni volta che uscite avete questo problema, che ci avete sempre no, i mosconi. No, questo problema qua, dai, sono sposata e... Sei sposata? No, beh, però in generale le ragazze escono... Sì, vabbè, sì, in generale sì. Sì, non è colpa vostra, cioè sono i maschi che... Sì, sì. È un classico. Però sapete come tenerli lontani, giusto? Certo. Ognuna con la propria tecnica, sì. Che fai spegnere le luci anche, È romantica, ecco, aspetta, aveva il 50%, ecco. E ha spento tutto. Tra l'altro combina sempre disastri, questa è... Sempre. Sei l'amica disastrosa te, giusto? La sorella. È tua sorella? Sì. Ti vedo contenta di questa cosa. Molto. Molto contenta. Quindi lei è la sorella disastro? Sì. E tu sei la sorella che la tiene a bada? No. No, sono responsabile, sposata da 13 anni. Come da 13 anni? Comunque all'asilo, cioè, mi sono sposata giovanissima. Giovanissima? Avevo 21 anni. E sei contentissima? Sì. Bello, mi piace questa cosa. Guarda che c'è anche le webcam, ti vedono, e quindi fai anche la certo. faccia convinta proprio. E ti vedrai e dirai: ah, però ero in forma quella sera. Intanto Valentina sta aspettando il ritorno in cuffia. Sì, Vale. Vale, sì. ci sei, batti un colpo. Ecco, c'è, presente. Ok, quindi sposata da 13, sposata da 8 mesi. Ah, fresca. Sì. Ok, tu zero, sì, single sono felicemente presa. E tu tra poco ti sposerai. Pro una settimana. Con Gino? No. Con Carlo, il camicino? No, mi confondo. Chi sei? Gino, Alice. Anche Gino. Questo chi è? Fa. Chi sei Eugenio, Alice? Ecco che storia. Ecco, ragazzi, il tempo qua fugge, 6 minuti quasi che stiamo parlando. E volete salutare qualcuno in particolare? No. Sì, Gino. Ah, Gino? Gino, sì. Anche tu, Gino? Sì. Gino, saluti! Tanti saluti a Gino! Ma tutti i mariti li chiamate Gini allora? Sì, certo, sì, a Padova si chiamano Gino. Ah, si chiamano Gino? I mariti? A Padova il marito si chiama Gino, quindi per chi per i turisti che andranno a Padova, ecco, mi è andata una notizia nuova. Il marito si chiama Gino. Gino. Questo anche per il tuo marito inesistente, lo chiami Gino inesistente, c'ha nome e cognome. Perfetto. Ok, salutiamo, un saluto da Ilaria. Valentina, Elisa, Alice. Perfetto. Ciao Gini, ciao. Bacio. Ciao. Ristoradio Convento. Enjoy people.